croce dove non è. Paccali! Hey, Captain, bella bella. Oh yeah, yeah, he's figured that out now, and they're picking it up. Giulio! Attenzione, Natalino, si ascolti qua, nord Sardegna, ti chiama, capo. Metabolici. Caspita, ciao Natalino, niente così. Carteggiando e niente, stavo facendo il pacco di quello dell'SP430, domani parte quella, K. Andrà bene Meda. Ah, c'è un camionista K che mi sta facendo il video proprio a lui, che mi vuole dare un apparato con frequenzimetro modificato e tutto, perché nel camion non li ci sta e vuole fare lo scambio K con questo. Stesse modifiche, stesse cose, però c'ha frequenzimetro, quello là, eccetera, eccetera. Gava. Sì, gappa. Adesso vi stavo facendo il video appunto come c'è l'apparecchio. Scusa che devo rispondere a un messaggio. Che spiegherà? Sì, io. Stavi parlando e sei andato fuori. Io sono sempre qua. Allora, finito di parlare, ho sentito te tutto. Guarda, nelle 11. Aspetta. Adesso ci vado domani mattina a comprare quei pezzi là. Anche la prolunga mi serve. E poi ti devi fare tutto quanto l'attacco anche all'impianto di casa. No, da fuori, cercavo che me l'ha messo 10 cazzo di 3 cicchi, per carità. Niente, stacco la corrente al contatore che viene da cancello, qua taglio il cavo, li metto maschio e femmina, prese industriali, quindi quando stacco praticamente usufruisco quello del gruppo, dalla mattina accendo il gruppo fino alla sera, poi spengo, utilizzo la corrente dell'Enel soltanto la notte che non consumo niente. La preliminare del tutto, se c'è un gruppo che ti dà energia per tutta la casa, cosa te ne vai con la dell'Enel? Non ti paghi la bolletta? Aspetta Gianni, fai da bravo, il serbatoio contiene 20 litri, 24 ore non posso consumare, non so quanto consumo, devo fare la prova prima, se mi consuma 24 ore non mi conviene più un pieno, perché fatti pieno sono 20 litri, quanto costa la benzina, la carta benzina non muni io. Vabbè, così devi fare prima cosa, se ti conveniva o no, perché magari se paghi di più di benzina, a cazzo che di luce ti conviene pagare la luce. No, infatti ho detto questo io, vedere quanto mi fa un pieno, se mi fa 3-4 giorni, perfetto, cerco di adoperarlo di meno, capito? Quando arrivo alle 8, prendo la luce, io stacco il gruppo, quando ti l'acceso 12-14 ore a voglia. Povero, ma non l'hai messo in moto nemmeno? No, perché non c'è benzina, cosa vado a mettere in moto? Grande! Pesa 48 kg. Cioè non è enorme. Ma è un faticoso a sollevarlo comunque. E a che ora, a che ora è successo questo incidente, Tony? Adesso? Io ne sto appena arrivando. Lascia contare che ero già tre quarti d'ora in mezzo al traffico che non riuscivo a uscire. Io stavo per andarmi a fare un giro a Plattamora. Ma se passo dalla Budibudi già non ha più gara, non ha sì, è un po' di libero, ma anche andato verso il produttore si sì, tranquillo già. Al ritorno che è il casino, capito? Comunque penso che non so se si è riparato o cosa cacchio hanno fatto, comunque ci sarà sulla nuova quasi dopo, non so mai, a vedere cosa è successo. Perché l'incidente adesso è molto grave, ambulanza e cose. O per l'uscio, oppure c'è uno molto grave. Se c'è un morto chiudono la strada. La strada è tutta chiusa. E allora è possibile che ci sia qualche morto, boh? Perché quando chiudono la strada così, la volta che io stavo tornando ad Alghero verso l'una e mezza con tutta la famiglia, c'erano i miei figli, la mia ex moglie, eccetera. Sono tornato ad Alghero e dovevamo girare per la quattro corsie e invece ci hanno fatto andare dritti. Perché? Perché praticamente questo in moto era con la compagna, stava andando in moto, la compagna è caduta, la macchina c'era dietro, l'ha schiacciata, l'ha ammazzata. E capita, vabbè, comunque, non lo so, speriamo che non sia morto, non lo so. Un casino comunque. Praticamente hanno fatto del viale dentro Bricome un casino, ma io devo andare a Bricome, ce l'ho andato. Allora cosa ho fatto? Sono uscito dalla Sant'Orso praticamente, già il petto che c'è passato il vento, non è successo l'incidente, poi sentivo le sirene, piano piano poi sento l'incrocio, ho visto il casino, ho girato verso destra e sono dovuto entrare a Platania dall'altra parte, un traffico che non ti dico, c'è una pattuglia proprio lì davanti che non faccio passare nessuno, hanno chiuso sia quelli che vengono da Porta Torres, da quella rotatoria, e hanno chiuso dove c'è praticamente uno fa il fumo, già messo Sassa da lì, che adesso è tutto bloccato, e c'è una pattuglia lì, un'altra pattuglia dove c'è la discesa del fornitore di Bricome, un casino. Poi prova a ridare. Vabbè, quando succedono queste cose è normale che chiudano, devono arrivare i soccorsi, eccetera. Speriamo che non si siano fatti molto male. È un casino. Le macchine sono belle, ma sono infine, bisogna andare di lì. Ma poi quel pezzo è rettilineo. Se metto quella che tiene la camminetta. E c'è una strada di Ariera e Bedda. Tutta, guarda, l'altra notte cazzo alle 11 notte, una corsia Zulu, beh. Ciao Tatari. Ciao a tutte e due. Ciao, lo sappiamo, stiamo facendo lavori in corso, stanno asfaltando. E io lo so perché io ci passo. E Carlo lo dice sempre che stava passando dalla Landriga. Se l'avevi usato butto cazzo, infatti sono passato proprio dalla Landriga. Roma manca la durata, perché io non lo sapevo che la strada era in quelle condizioni, Gesù Cristo mio. Infatti già, io ritorno dal mezzo, sono passato la strada vecchia. Vabbè, è così, i tornei di no. Tornei. Stavolta sono i tornei, oggi è giovedì, Gianni. No, a Tarino sto dicendo che era alle 11. Ah, pardon. No, avanti ieri quando è tornata mia moglie, sono andato a pigliarla all'aeroporto. Ah, ho capito. Faccio capito. Ma vabbè, adesso mi è bello andare al Ghero di notte, adesso c'è la rotta panoramica. Se andiamo a farci un giro tutto lì. E in quella piazza grande grande l'ho messa, ho fatto per la foto. Cacco. Sì, a te mi tu. Non è che temo, è che se si blocca rimane in lascio mi rompe le palle. Beh, chi sa tutti, no? Tu pensa che io la guidavo quella lì quando c'era Matterland che veniva vicino a casa. Lavoravo da Matterland e guidavo la rotta panoramica, ero alla cassa e la facevo camminare lì. Ma questa è molto più grande, ci sono più delle cabine, Gianni. Non sono come quella della matta normale, l'hanno cambiata, questa è enorme. Lo so, però stavo pensando, hanno fatto una cazzata perché lì d'estate si mette sempre matta, allora adesso hanno messo la rotta panoramica rimasti con corrente. Sant'Antonio di Gallura. Devo cambiare le lenzuola che non ha Giovanna, così quando viene lì trova tutto pulito. Cosa ti stavo dicendo? Ma l'hanno messa al porto lì, no? Noni, tu quando vai dal porto andare verso Sassa, la Travicchia, cioè che ci si può andare verso l'ospedale, diciamo, vai, quella piazza a destra che è enorme, la più grande piazza che c'è, lì. Ah, ho capito. Sì, quella di Matterland era più piccola, però era bella anche quella, non era brutta, quella di Matterland era bella, io mi sono seduto. La guidavo e mi sono seduto anche. Era molto. Andava in alto anche quella lì. Ma non mi è mai successo che si sia bloccata. Però so di gente che è rimasta in alto. Ma te le immagini se si rompe un ingranaggio e rimane appiccato? Avanti Natalia. E allora, te le immagini, a tornino in alto, cazzo, non so come scendere. Eh sì, che mi attacco con la pioggia la mattinetti, aiuto, aiuto! Una cosa brutta già l'ho vista lì da Matterla, l'ho fatta tanti anni fa. Hai visto quei seggiolini che ti lasci per prendere la bandierina? Questo qua ha puntato i piedi, ha lanciato a questa tipa, si è sganciato il seggiolino, si è uscito a braccare. Sono pericolose quelle cose lì. Sì, Natali, sono tenuti da un gancio, solo un gancio. È tipo il gancio di quello per appendere la carne, così. Senza nessuna sicurezza, perlomeno allora erano così, adesso non so come sia. Come lui ha spinto, il gancio si è uscito fuori ed è caduta giù. Qui Gianni Natalino ve l'ha mandata la Roma, la rotta panoramica, questa è Ectora. Cosa? Abbassa che su volo, però se li comprendi nudali. No, ti passo così. Vi ha mandato la foto della rotta panoramica del Ghero. A te e Natalino. L'ho vista. Bella, eh? Manna, sono tutte cabine. Siccome è troppo alto, capito? Mia Mari, vai. Te immagini Natali quando sei in alto? Si stacca il bullone e si corica. Ascolta, tu l'hai fotografato? No, mia figlia che l'ha fiata a me. Ah, ma pensavo che fosse andata a farmi a farti un giro. Sì, era vero. Allora ti spiego. Ho fatto vedere la macchina a mia figlia, la camionabile. Poi Rosario, poi stavano due mari, Alghero, siamo fermati al Mirese, abbiamo mangiato due focacce e poi ce ne siamo tornati sempre da lì, poi ho fatto guidare di nuovo mia figlia. Ma oh, dice che la motorizzazione è tutto bloccato, Marco doveva dare l'esame di guida. a mio figlio lo dà questo mese l'esame di guida. Cosa? Mia figlia lo dà questo mese l'esame di guida. Non lo so se si sia sbloccato tutto, perché dice che sono intasati di esami da fare e non ce la fa. No, ma ha detto questo mese maggio, ma il giorno non gliel'ha detto. E adesso anche Marco lo deve dare. Deve darlo anche a Marco, gli mancano solo un po' di parcheggi da fare e poi ce la guida bene la macchina. Adesso vado io a darlo l'esame della patente. Perché devi dare l'esame della patente? Perché mi hanno trovato un ubriaco fragico e me l'hanno ritirata. Tu sei cuoco, ma è forse per quello. Imbriaco fragico. Sì, immaginate, Doni. Io non solo di dare l'esame, ma ne ho regalato un po' allo Stato di patenti. Mi ho fatto dare quella della macchina normale. La B mi ho fatto dare, c'ho la A e la B. Posso portare pure la moto. Ma da lì, io l'ho presa nel 74. Ho pagato 5.000 lire da conto e 30.000 lire a fine corso. Dirò che ho A e B e la non ho mai presa e posso portare qualsiasi moto. Se sono moto 10.000 eccetera, te la posso guidare. Quando vedi una certa data, poi non sono di cosa, era l'80, che è uscita la legge che avevi soltanto la B. E se vuoi guidare la moto e prendere la A. Non lo so. Io ce l'avevo tutte le patenti, solo che cosa me ne posso? A mantenere la patente di Pavio io vorrei 350 euro e più un mese di scuola guida ogni volta che scadeva. Vai, a Giubiliardo, voglio, quando mi è scaduta, gli ho detto voglio la B, gli ho detto per... Ho fatto la visita e mi hanno mandato la B, ho rinunciato a tutte le altre patenti che non mi conveniva, me l'hanno rinnovata per 5 invece che per 10, perché ho già l'età, e quindi che cavolo me ne facevo delle patenti alte? Niente, era i pindi di Naibu. Togli una curiosità, tu perché ti avevi preso la patente alta? Per fare compagnia a mio fratello, che si stava prendendo la patente alta. Sono andato pure io e me l'ho presa pure io, solo che io me l'ho sfruttata e lui no. Semplice. No, perché io ho pensato nel frattempo, no, ma se avevo la patente alta, ma non è che portavi le paste col tir, cavolo, e le pasticceri? No, io ho lavorato in altri posti, un attimo che mi stanno parlando. Avanti già. Ma poi io non mi dava il pulma. Portava le paste col pulma. No. Poi la pasticcera l'hanno chiusa e ha fatto altri lavori. Sì, vabbè, lo so. Perché l'ho conosciuto che lavorava in pasticceria, capito? Anda più su, ma anche a me piace già. E io, guarda, la pasticceria non ci devo lavorare. Se no, cazzo, non fai i baci. Beh, senz'altro. Ho detto, ma anche a me piace. Ne ho tirato una, ma anche a me piace, lo piacco. Poi ci ho trovato la macchina per fare lo zucchero a velo. Tu dici, ti interessa? Lascia perdere, proprio a noi, ma vai! L'ho provata per vedere se funzionava, si accende una resistenza sotto, mentre gira, scalda lo zucchero e lo fa filare. Ma io che tu zucchero non puoi mangiare, io l'ho fatta una volta la crema, è uscita buona veramente, adesso la posso la faccio più là, ma poco poco, capita, e va zucchero vero, no. No, ma non ne ho mangiato, l'ho fatta solo per vedere, perché non l'avevo mai usata, capito? Ce l'avevo, non l'avevo mai usata. Quindi ce l'hai tu, ce l'hai? Cosa? Ce l'hai tu sta macchinetta? Ehi, e fa una cosa, quando c'è la cavalcata, il cannellino, il timone e vedi il zucchero filato. Sì, non si mi avvisa che non va giù un permesso. Vai, vai. E dopo la macchinetta per farlo in casa, non è di quelle grandi, capito? Quelle grandi è una sagosa. Vabbè, il permesso te la puoi sempre fare. Se ci sono proprio disoccupato, vediamo una licenza, mi metto nell'angolino. Tu sei un buffonetti, se ti fai i conti, un pacco di zucchero non costa manco un euro, eh? Con un pacco ne fai un centinaio, li vendi a 2,50 euro l'uno, te li fai su. Abbassa il prezzo, carta, così non riesci più a venderli. E vendi a 1,50 che ci guadagni. Tutti a 2,50 lo vendono lo zucchero vero, se non è aumentato, lo zucchero filato. Non c'è più lo zucchero filato, una volta che costava 50 di lega. Ah, Tony, li vendo tutti a 2,50, tutti così lo vendo. E niente, guadagni bene perché un pacco di zucchero non costa manco un euro, o se costa anche un euro, però tu lo fai pagare 2,50 euro, già te li fai, li fai 70, 80 con un chilo di zucchero. Ma tu per fare concorrenza lo metti a 2 euro anziché 2,50. Cosa? Tu per avere concorrenza con gli altri ne metti a 2 euro e risparmi 50 centesimi e gli altri comprano da te. Sì, sì, fanno nei paesi. Nei paesi devono lottare tutti lo stesso prezzo, se no bene lì con il cuscino. Ti fanno lo zucchero fidato a bocca di mine, a pallettini. Fanno le Morese, con la zona lì, con le feste. Ti danno il permesso di restare, però ti devi comportare sempre, si avvicina, ti dicono a 2,50 lo stiamo vendendo, non devi farlo di meno. Un casino, e io mi sono messo disteso sul letto, che bello. E la sua cosa è? Io via, chissà che la sia nuda. Dai, no, io ci devo buttare con la minestrone, ce l'ho troppo, che devo buttare lì, mi sono dimenticato. Io devo fare quei fagioli, ma fagioli, adesso quei cicci, ma non so, boh, no, non ne ho mai fatto, non so come farli tu. È facile. Tu ne metti se sono cicci secchi, quelli? Sì, si lasciano al bagno nell'acqua, quello già lo so. Le lenticchie già le ho fatte, ma il cicci no. Allora, ci metti l'acqua tiepida, un cucchiaio di bicarbonato, metti il tappo e domani si gonfiano un po', giustamente, come fagioli secchi, eccetera. Poi le lavi bene, metti la pentola e sciacqui. Cioè le lavi. Dove davanti però metti l'acqua, io non le metto ancora bene, delle bottigliette. Io con 2,5 litri, sono 5 bottigliette praticamente di acqua di bottiglia, faccio cucinare, poi ci metto la carne e faccio cucinare insieme ai cicci. Poi alla fine ci metto la verza, la cipolla, perché è la roba che si cucina prima, capito? Con la verza e la cipolla si è a posto, ci metto un po' del sale e vai. Vai, vai. Ce li ho io, li ho comprati, ce l'ho in confezione, non so, perché me ne aveva fatti comprare una persona, adesso non c'è più, quindi non so come farlo. Vabbè, già li farò quando ne giugate. E io ho un pacco di cicci, ho un pacco di fave. Ho visto la merda dello spirito, ma quasi quasi mi faccio la favata, questo no, non la giugata. Devo essere cercato, ma no. A me mi hanno regalato due, uno verde e un cavolfiore. Me ne ho giù fatti, me ne ho fatti i bollicchi e me ne ho fatti l'insalata, cos'è che te la rivoli? Con un bel po' di aceto. Io uso aceto di mele, che è più leggero, e un po' di olive in mezzo e un po'. No, no, io uso aceto normale, aceto di vino mi piace, a me che su bianco, non uso altro aceto, manco balsamico, non mi piace. Nattalino, va, Nattalino deve essere salutato. Ecco, ma io uso quello di mele perché quello di vino è troppo forte e pizzica la gola. Ah no, a me mi piace quello, proprio il sapore dell'aceto mi piace. E lo metto anche abbondante perché mi piace proprio essere che sia acetosa, proprio buona, così saporita. Vabbè, ma con l'aceto mi togli molto il sapore, capito? Quando l'aceto è forte. Tony, sei troppo forte, non si ricomprende nulla. Abbassa appena appena il mic che se non riesci a abbassarlo da lì. Io sono distante al microfono, aspetta che mi alzo. Ecco, così va bene. Adesso sì. Ma è troppo forte, le parole non riuscivi a distinguerle in me. Ho detto, esce un bel forte sul microfono. Ma è fastidioso, se è troppo alto non si capisce. Più bello è. Io via. E faccio il Torre di Pavia. Deve essere forte, ma non, ma deve essere limpida la radio. Se è la bruttosa, non si ricomprende nulla. non è limpida, ci mette un po' di varettina. Limpida, limpida pure la maglia. No, la bruttusa. Adesso già va bene. E che fa? Sì. Anche l'eco è troppo ripetitivo quello tuo. Che bellino è, dai. Senti il mio. Questo è il checco. Più o meno come è mio. Sì. Auto fa sì sì sì sì sì sì sì. Ma io ce l'ho normale, quello è stato toccato, ecco, non è l'originale. Lo posso regolare da dietro. Prova. Aspetta. Allora, messo. Guarda la porta. Adesso com'è? Sta diminuendo? Ma c'è per ripetitivo, boh. Allora, cioè io mi diminuisco la voce mia, la voce mia la diminuisco nelle cuffie, toccando il pomello che c'è dietro, non ci faccio cosa arrivi, boh. Adesso ecco, non c'è. No, l'ho tolto. Ah, l'ultimo passaggio mi sembrava migliore. Con l'eco. Io. Aspetta. Così. Poi a te l'eco sempre non ti va bene, perché parli un po' in fretta, con l'eco devi parlare piano piano, se no si accavalano le parole. Colpa mia se ho la palantina veloce io. A me mi sa che voi mi ascoltate a 78, siete abituati, invece io parlo a 16. Sembra quando ascolti i messaggi li metti a 5, a 6 e fa dice fretta in fretta. Addirittura. Io andavo a fare la pubblicità a me. È Natalino, Natalone, dove sei? Natalino. Oh, Natalino. Anche il mio è diverso già. Ehi, è stato toccato con la... Ma quello è quello che è malissimo. No, questo mi ha dato un rilevatore di cadia, lo conosce anche Stefano. Ah, boh. Però sicuramente è stato toccato quello lì, perché il MIP non è l'originale, l'eco lo stesso, ci hanno lavorato, ma l'hanno peggiorato l'eco, l'ho bimbiato. E c'ha le lampadine azzurre alla parte alta degli due smitter. No, il mio è tutto originale, non è stato toccato, tranne quella aggiustatura che gli hanno fatto, ma per il resto è tutto originale. A me sono bianchi tutti e due, le vedi bianche, però se guardi in alto, nel contorno c'è azzurrino, è bello a me. Ho capito. Il riquadro. Yes. Che la pagava. Vabbè. Interessante che funzioni bene. Mi cappa. Voglio programmare. Cambiami nel suo, non farà una mezz'oretta, dai. Più o meno. Tre quarti d'ora. Non è cambiare, tutti di... No. Se lo dici, ma tu se ne sono, ne cambi mai. Ne cambi domani. No, che viene stanotte. Ah. Oggi giovedì. Ah, è vero che oggi riposo. Oggi giornata di lavoro. Che preghiera. E suoniamo la tromba e gli do il cornetto della crema. Ma l'hai comprato, approfitterò. No, le porta lì, glielo ho già detto, se più devo occuparli. E compra anche la bottiglia di spumante Asti, perché lì ti piace quello. Spumante? Asti, frizzante e dolce. Asti gaccio. Troppo. Oh, io compro quel vino, è un bel buono, quell'ambrusco dell'Emilia, costa 2 euro qualcosa, ma è buono. È frizzante, ti fa digerire bene. L'amabile stai dicendo. Sì, amabile, il secco non mi piace a me. Ma neanche a me piace il secco. Io sempre l'amabile. Anche il bracchetto è buono a me. Già lo so. Io lo compro quello lì perché non è che costa tanto, dai. E poi non è abbordabile, poi non è forte. È un vinello, capito? Non è di quelli forti che ti imbriaga. Che poi il vero bracchetto in Irano è il migliore che c'è. Bracchetto da caccia. No, bracchetto da caccia. Il Nerano io l'ho conosciuto sono ricco subito, lavoravo ancora, ci ho messo altro, fatto il conto. Ci sto parlando a bellezza degli anni 85-84. Vabbè, anche io l'ho bevuto qualche volta, ma ce lo so, lo conosco. Poi c'è uno spumante che noi vendevamo, che c'era la bottiglia blu, non l'abbiamo più preso. Io ogni anno a Natale vado a cercare, non l'hanno più ordinato. Ma era di una bontà unica, l'avevano aperto per festeggiare i principali con i dipendenti, per farci gli auguri, e ogni anno aprivano lo spumante, c'era il panettone, lo mangiavamo insieme, poi ce lo davano anche a noi, panettone, spumante, eccetera, eccetera. Era per salutarci, là, per farci gli auguri. E hanno aperto quello lì, oi Tonino mio, quel giorno lì proprio preso con in carità davvero, sono tornato a casa, non comprendivo, non vedevo la strada. Succede anche a noi quando lavoravo a Fiumesanto, ci davano il cesto, c'è la colomba eccetera, a Natale il cestino eccetera, però due o tre giorni prima di andare a chiudere il cantiere, prendevamo lì eccetera, lavoravamo mezza giornata, si mangiava in mensa, poi subito il cantiere, a mangiare e via, e mangiare la colomba, bere sfumate eccetera, oltre a me che mi raccanto, con quello di patata, Giuseppe Amato, isso. La cottura che non riuscivo manco a guidare la macchina, ha già buttato tutto dentro la macchina, non c'è cascino a fianco. Sì, ma lo sai che li portavo, quelli li portavo io, per Natale li portavo sempre io, andavo lì dove c'erano gli uffici e scaricavo panettoni, cestini, tutto quanto, un camion di roba portavo. E cappa. E altri tipi comunque, ma come hanno mai fermato, non mi so quelli che stavano lì, patente, macchine e pantalone pure, No, ma quel giorno lì mi era piaciuto e tutti dicevano, ma basta che stai bevendo troppo, carta carta è buono, ma buono, mi è piaciuto un bel, io non bevo Mituri, non bevo, però il giorno ma proprio incialinato, dai, sono tornato a casa che non comprendivo nulla, sono andato a fare la macchina dei trampetti. Ma io avevo preso un vino, ma io non me ne intendo il vino, ho visto dolce, frizzante, rosso, la Lusimona, che sono andato a ricomprarlo, non se ne più, tutto fatto fuori. Tant'è vero, ho detto la commessa, ma gliene portano? Sì, sì. E adesso è una ruba. Ma buona, adesso quando lo trovo le compro 3-4 bottiglie. E che vino hai tu? Non mi ricordo, così gentile, molto. Devo trovare un telefonino perché ne ho fatto una foto. Come la trovo? Adesso la foto trovo. Mandamela! Non è che ne avevo tanto, ne avevo mezzo bicchiere a tavola io. Adesso, ma prima non ne bevevo proprio niente. Adesso dopo mezzo bicchiere a pranzo me lo bevo, dai. Però non più di tanto. Non fare come quello, mezzo bicchiere a tavola, ha detto dottore, io ce la fregniamo, non andavo a pagare in mano, qua da seguire, poi molto poveraccio. E io stasera, vedi, un bicchiere di birra me lo bevo perché mi prenderò sicuramente le pizzette al taglio e me ne frado 4 almeno. Ti gonfia Gianni. Ehi, avanti Tore, buonasera. E buonasera anche a voi. Pagane anche 4 per me. Torino lo deve prendere, non io. Io non so la marca, se me la sta mandando a vedere. Ma perché tu non bevi il vino? E mi domani devo togliere un sacco di bottiglie di vino da una cantina. Ma fatto da te? Buttarlo via devo, lo devo buttare via, perché non so, tappato bene, sigillato. Perché lo butti, scusa, lo assaggi, se vedi che accetto, ti lo rappo. Non è vigo di vino, non ne sto bevendo. Abbiamo detto a delle persone che non ne vuole. Che vino? Non lo so, perché ce l'ha da un sacco di tempo in cantina, quindi non so, mi sembra che ce l'abbia 3-4 anni. Ma è il vino più vecchio, più buono è, ma cosa di zecchi. c'è il cugino, vabbè, un amico che c'ha la cantina e c'ha vino anche del 74 ed è buonissimo, l'ha stappato per ore quando sono andato io a mangiare a casa sua, ha stappato il vino del 74, ma era buono a vino e ti mirava a capo muro. Ciao dottore, sì, trovato Gianni, si chiama Malvo Gentile. Malvo Gentile? Cappa, Malvo Gentile. Ed è frissante tu. Anzi, ma buono mi esce, ma dalla foto. Ah, se ti interessa, vieni domani mattina, latte dolce, e te lo do. Ti metto nelle cassette. Ma non è che ne vengo che c'ha gatto, non è che ne bevo tanto, Sarebbe vorrebbe una bottiglia sì, ma e poi devi testarlo prima se è buono, se non è buono cosa me ne posso? Non te lo so dire, io non te lo so dire. Sono sigillate le bottiglie, sigillate proprio di quella maniera, fatte come fanno nelle cantine. Ho capito. Beh, perché non assaggi, scusa, non assaggi appena appena, se vedi che ha sapore d'aceto di rurappi. Che poi anche come aceto si può usare, se io non capisco perché stai buttando. L'hai vista Gianni? Sì, sì, Tony, l'ho vista. E me lo tengo adesso, così almeno se lo trovo ve lo prendo. E a Sella Secca è andato, si è cercato. A Sella Secca? Di fronte a San Paolini, alla banca, c'è lo spi, dove lavorava quella persona. No, ma io non l'ho preso lo spi, io l'ho preso da MD. Ah, da MD. Cappa. Ah, ho capito. Tanto bene mi ascolti con questo microfono. Chi io? Ma sarà l'autore. Ehi, ciao. Sei, ma io un po' appena appena bassino ti sento. Però come radio stai facendo bene. Aspetta. E adesso bene mi senti? Cosa, ti sei avvicinato? No, ho aumentato il volume. Allora sono lì che sei legato una bomba, vedi il bassino. Come fai a sentirlo basso? Io lo sento una bomba. Io lo sento appena appena basso, lascia la recimi, boh. Oh, come radio è buona. Io ti sta chiedendo come lo senti di radio, tu? Ah, la radio è buona. La radio è buonissima. E mi dice un po' bassino. Beh, segnale il peso in cima che sono minimo potenza, no? Così ho aumentato la potenza massima del baracchino. E così sto facendo 4 watt. Andave. Mi era succede che mi senti bassino di radio. ha bisogno degli apparecchi, caro dottore. No, ho pensato, già ne mi piede Baruguru. No. E poi non tira giù manda dalla registrazione, non lo sai. Cappa. Dove ha capito di segnale forse, capito? Ma strano che a lui arriva bassino. No, come radio stai uscendo bene, stai uscendo. Ma se la recimi, boh. Oh. Basta così che mi do, forse se la recimi. Io posso aumentare, autore. Guarda. Così sono al massimo del volume e della potenza del microfono. Si sente il rumore. Si aumenti. Passalo come era. Tony. Lo so, si sente di alternata. Lo sento anch'io, anche quando respiro. E te? È molto sensibile, capito, come microfono. E tu non parlare, schiaccia la portata, vedete. Aspetta, ero vicino al baracchino, sono, aspetta. Ecco. Adesso sono distante. Adesso è risolto, Tony. Adesso non si sente. Lo so. Sono troppo vicino all'alimentatore, c'è il casino. Anche l'alimentatore del baracchino entra in conflitto, eh? Lo vedi? Sì. È un ronzio che ci sente un po' alternata. No, ma ho detto che è molto sensibile a questo microfono, sente tutto, capito? Anche la mosca che vola, raga. Ehi, no, già va bene. È un bel microfono comunque, amplifica un bel. E me l'ha detto anche Natalino che... Lo sciure. Vabbè, lo usavo per cantare, i cantanti, quello, lo Shure. Anche Emanuela si è comprato lo Shure per cantare, con l'asta per cantare. Sono le microfoni che fa la Shure, che sono le migliori che ci sono, così. E tra i migliori, ce ne sono anche altri buoni, però lo Shure è uno dei migliori. È così. E tuttora, che microfono stai usando? Cioè, che minchiofono stai usando? Io sto usando l'MP4. Ma mi senti un po', ti sento un po' cupo come radio. Come mi senti? Un po' cupo. Ma come? Cupo? Cioè, non è chiara, ma sei al minimo. Adesso l'ho messa a 5, guarda a vedere. Adesso leggermente più chiara. E va! E fa un passaggio lungo. Giusta? Un passaggio più lungo. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Adesso già va bene. Ma va, c'è Paggio Maria, mi dice da basciallo. Il capita. Vedrai, ti dice che è troppo forte. Insomma, tu sei due orecchie, lui c'ha le orecchie troppo aperte, Gianni li prendi. Gianni si è allontanato. Andemmo bene, andemmo. Ma te vino non te ne serve, no? Cosa? Vino non te ne serve, no? Dipende, a me piace quello dolce e frizzante. Questo qua è invecchiato, non lo so da quando ce l'ha, però è sigillato benissimo. E che vino è? Boh, non te lo so dire. Non ne so che vino è, perché ce l'ha tanti anni lì. E devo svuotare questa cantina, questo magazzino, da. Ma si può vedere, qualche un po' di bottiglie me la posso prendere. Se ce ne saranno, se o no, 10 o 15 bottiglie. Capo, vediamo se è quello buono, che me lo prendo, dai. Lo dici tu quando vuoi venire. Dottore Mudo. Lo devo mettere dentro le cassette di plastica. Capo, quando è che la devi svuotare sta cantina? Domani mattina e domani sera. Ma sempre vicino a casa tua? No, a Latte Dolce, quasi vicino alla chiesa. Prima del tabacchino. Oh, non sei assai piccante tu, eh? Io gioco a Santa Maria di Pisa. E questa qua è a Coso. A Latte Dolce, prima del tabacchino. La via prima del tabacchino. Tu mi hai detto no. Insomma, praticamente è sempre in zona, capito? Se non era in zona era il Monte Rosello, Sacro Cuore, Sasso di Vicio, capito? E vabbè, sempre in zona lì, perché sennò mi tocca buttarlo via. No, che ho peccato, almeno più invecchiato è meglio, Perché a me mi dicono che più invecchiato è più buono, Eh certo, vero già. Sì, se è conservato bene, è invecchiato, è meglio di quello fresco, di quello fatto da poco. È normale. Più invecchia e più, però di solito lo fanno invecchiare nelle bottiglie, non lo so se è rimasto buono, però ti ripeto, questo amico nel tuo del 74 di vino era un bombo, ma buono al vino, e ti imbriagava pure, era pastoso, di quello della zona di Dorgalie. Ma queste le bottiglie sono dritte, e c'hanno il tappo di sughero, ecco cos'è, però è sigillato. Io già ho visto la bottiglia del vino in quel negozio, Zimbibbo. Allora, lo Zimbibbo io la conosco perché l'ho bevuto tipo un cagliaritano sulla nave, ed era rosso, buono, dolce. Questo Zimbibbo che era imbottigliato era bianco, non mi sono fidato, non l'ho comprato. Ma questo vino cos'è? Vino sardo di produzione o comprato? Il vino deve essere di vino di produzione, deve essere di qualche cantina, perché lui lo comprava a sfuso, se lo metteva nelle bottiglie e lo sigillava. Ah, ecco, capito. E niente, Tony, se ci rimbrianghi, accompagnata dalla Feni. Te lo posso mettere nelle cassette di plastica e poi vieni e te lo porti via, poi mi dice è buono o no? Certo che lo gusto, un goccettino se è buono, mi scolo la bottiglia di così che è buono. Altro non ti posso dire, se ne ha giurampato un bel mi si ne ha giurampato di quello che aveva su Quello l'ho svuotato, le bottiglie ci hanno buttato perché i tappi erano in mezzo frasi, in mezzo frasico. E quando mi avvicino a te? Dove prende la prima via che c'è prima del tabacchino? Aspetta, prima del tabacchino, stai parlando praticamente il tabacchino, prima sarebbe dove smucchi praticamente, dove c'è le poste. No, via Kennedy, presente ce l'hai? Ah, via Kennedy. La prima via che trovi prima del tabacchino. Anzi, l'ultima via prima del tabacchino. Non ho capito. Vabbè, adesso ci sentiamo domani, a caso che non me la metto più. Ma il telefono mio ce l'hai? Non me la metto. Aspetto che faccio subito. Via. Allora. Vediamo, torre. Ora. Qualche detto. Torre. No. Proprio torre, non ciò. Come ti fermo da dire che non di frequenza non fasi? Da Rattalino fatelo dare, già ce l'ha Rattalino. Fatelo dare da Natalino. O da Gio Maria pure, ce l'ha Gio Maria. No, ma preferisco più da Natalino, che Gio Maria non è che vi intendeva, è compreso. Cioè, fatelo da Natalino, Natalino ce l'ha. E da Natalino me lo faccio dare. Ma fammi capire tu. Mi ha detto, Gio Maria non è che intendeva. È come ti dice di abbassare. Che non comprendo, ecco cosa è. A volte mi dice che è alto, a volte mi dice che di abbassare un po' Garillo. Vedete che io mi cadernerò sulla veloce, che già le 7:00 meno 4. La riduzione a voi all'8:15, non viene niente, è un casino in occhi. Adesso il punto è a capo. Vi ascolto, ben volentieri, dai. Non proseguo. Ciao Gianni, ciao attore. Ok, domani mangiamo, ma a che ora più o meno mi avvicino a te? No, fammi lo squillo prima. Perché non so a che ora vuole andare mia figlia in questo. Fammi lo squillo. E poi ti dico a che ora, se sono lì, ti dico l'ora. Vabbè dai, dopo che ho messo l'adesso la chiamo Natalina, mi faccio dare il numero tuo. Ok, poi domani ti faccio lo squillo. Tony, adesso tu lo assaggi, se vedi che è buono non è porti la bottiglia. Anche due, non c'è problema. E non è buono, però sta ammazzando tutti i toni. E a me, Luca, Sandrino, Baraccocco, che era abituato all'industriale, vieni, faccio assaggiare un vinetto, in officina. Intanto il cubino era a zitto, e ando ridendo. E vabbè. Una scialice, mandate. E beh, non ce l'hai compa, un po' di silicone, vai. Tu ne hai un meta, adesso se lo do, là. Faccio il silicone, tutto contento. Dopo una settimana siamo andati. Qua c'è poco che manco qui. L'altro silicone è variato, non fosse secco. E anche il rubino così mi hai dato tu a me. La capisci? Andiamo catta. Io non lo so se è buono, se non ti so dire nulla, ecco cos'è. Vabbè, ci provo, dai, non c'è problema. Ok dai, vi ascolto, buon proseguo, ciao Tony. Tu assaggialo, tu lo sai se è buono, se vedi che è accettoso lo usi come accetto, ma se non ha sapore d'accetto è buono. E cappa, già l'ho gusto io, non ti preoccupare. Ma la puntina, ma se non ti fa male, ti fa dei luci, sarebbe più troppo di accetto. No, che prima l'assaggio un boccettino. Tore, adesso Tonino diventa alcolizzato. Fa quindi esempi di vino. Ah, non ci credo. Ma che una cosa non si può buttare, ecco cos'è. Non so dove metterlo, no? Ci avevo messo, prendevo, lo mettevo vicino a dove dove buttano la roba, quelli, quei cassonetti gialli dove buttano la roba, a fianco l'avrei messo, vicino alla chiesa. Oh, quello tu devi svoltare, tu devi smontare e metterlo nel vetro, cosa se ti senti? Non le puoi mettere, no, così, se taccia a fare rimuovere la busta. Devi smontare le bottiglie, per regola dovresti anche sciacquarle e metterle nel cassonetto, nel coso, nella campana dove si butta il vetro. Già lo sai, tu hai fatto il suo mestiere e non lo sai. Posso, ma fa più lettera, io volevo lasciare le bottiglie piene, qualcuno si ribigliava. Bisogna venire. Ma, insomma, se ne prende Tonino, dai. Poi se vanno bene, già piano piano già si libranno. Ah, che così? Ma deve essere che buono come vino, perché le bottiglie sono sigillate, sono con la sigillatura rossa, sono. Se è buono, si anda, se no pazienza. Se no, beh, sei della pazzia, E infatti, Fazegussi le apre, la tassa, se è buono, anda, se no, arrivederci. Ma lo sai che ho sentito dire che hanno messo la multa anche a gente perché ha lasciato l'etichetta attaccata alla bottiglia? Dice che devi staccare anche l'etichetta, ma vero? Boh, di questo non lo so, io ho già fatto in pulle con l'etichetta attaccata, a voi non lo so. Ma tu non stai più lavorando, sei già in pensione? Sono 8 anni in pensione. Grazie a Dio, ti ho dato tempo. Vabbè. E comunque se è buono, 10 bottiglie non sono dalla pazzina. 10-15 bottiglie saranno, non di più. Ne ho almeno 2-3 cassette nel pieno. Cappagappa. No, se viene Torino a portarselo via mi va un piazzino. Hai compreso? Io va bene, dai. Se è buono perché buttato, scusa. Infatti, se è buono, io non me ne intendo di coso, ecco cosa è. Poi devo liberare dalle cassette che ci sono. E sabato deve portare via tutto quanto, deve portare via con il furgone e togliere gli scaffali e lascia biudo. Ho capito. Io non è che sia un grande bevitore, addirittura io prima non ne bevevo nulla di vino, niente. Adesso ho scoperto questo lambrusco che ti fa digerire bene, e ne prendi mezzo bicchiere, mi ne bevo, non è manco una dasa in tria, mezzo bicchiere, mangiando, e ti fa digerire. Io manco che se posso ducava, perché sto facendo le cose delle... per controllarmi la glicemia e poi devo far vedere il libretto che forse mi giambare i bastigli. Ma tu cosa lo stai prendendo? Prima, dopo pranzo, eccetera eccetera? Prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena devo segnare. E anch'io lo sto prendendo, ce l'ho anche a me, mi ha sgridato l'ultima volta perché mi ha detto: ma scusi, io come faccio a fare la cura se lei non mi scrive le glicemie? E io gli ho detto: ce l'ho a casa. E cosa mi ha lasciato fare a casa? Me lo devo portare qua. E gli ho detto: vabbè, la prossima volta gliele porto. E si ricordi però, No, a me mi ha fatto di portargli il 16 ottobre di portargli il libretto, mi ha detto di portargli il libretto, so che mi hanno assegnato 25, 3 mesi, 25 per 3 mesi devi fare. 25 cc. 25 piastrine per controllare, 25 piastrine per 3 mesi. Ma le lancette stai dicendo? Le piastrine che per misurarti la glicemia. Io ne ho 100 me ne ha fatto. Perché mi sono lamentato che non mi bastavano e me ne ho aumentato. A me me ne ha segnato 25 ogni 3 mesi, ma specificato nel coso, se le segni come farle, se le divida in un mese, agito, così sì, mi capita già 2 volte in un mese. Come fai se ti devi misurare tutte queste volte e non ti bastano? Allora io la devo misurare, mercoledì o il giovedì di una settimana. Una settimana la devo lasciar perdere, anzi due settimane devo lasciar perdere, perché due fai che siano in un mese, fai che ne fai tre, l'altro mese ne vai due, hai compreso? Come ti esci ne devo fare? Ormai io sto diventando prima ero più attento, più cose, adesso me ne sto un po' fregando, ogni tanto mi mangio la pizza e la mangiata, le zette passa, la bui, il giorno dopo me la regolo di nuovo, però non posso stare sempre mangiando verdure come facevo prima, verdure, pesce per non alzarmi e la mela. E io adesso odio le mele perché mangiavo sempre mele per frutta, gli altri mangiavano tutte le primizie, io mangiavo mele e basta. Non mangiano, non vedo voce, viaggio a 142, 147, viaggio. A pranzo, prima di pranzo, ce l'ho, mangio le cose, le bustine di gozu, e viaggio a 102, 74, la notte mi raggiungo a 87. Io oggi ce l'avevo a 100 per dire prima di pranzo, però stamattina, allora ieri notte mi sono coricato che era 136, stamattina mi sono alzato che era 202 e non ho mangiato nulla, grazie, ma non ho mangiato niente, a dire che ho mangiato. Ah, secondo me, secondo cosa mangi, è quello che... Ma a me mi ha detto di mangiare fettine in bianco, coniglio, pollo, mi ha detto di mangiare insalata parecchio, anche cotta se possibile. Io ho detto, quella cotta non la digerisco, quindi non la mangio perché non la digerisco, mi rimane sullo stomaco, ma l'ha giudito. No, io la mangio, mangio i cavolfiori, me ne ho fatte anche ieri io, per salata, cavolfiori, le bietole, tutte queste cose, mi piace anche, no, io la digerisco tranquillamente. Non puoi stare sempre ruminando, grazie. Quando andava mia moglie a comprarla alle barcarelle di Piazza Vessini, diceva, ma tutta questa verdura chi se la mangia? Gli ha detto, il verduraio, cosa c'ha, animali? No, mio marito chi se la mangia? No, io i cavolifiori la insalata la mangio io, mi metto appena d'olio, perché mia moglie ne pone di più di uso, io me ne la tolgo prima di mettere l'olio e me la metto una parte e mi metto un filo d'olio, mi metto, non molto, perché l'olio è pesante, e quella già la mangio, però le bietole e altra cosa di verdura cotta non la mangio. Io sì, io anche le bietole. Ma da lì mangio le bietole, mangio gli spinaci, gli asparagi, tutte queste verdure qua. E poi i pomodori e insalata mi piacciono con le cipolle e se c'è anche il citriolo. Ecco, così mi piace un po'. Guarda, io mangio i finocchi, i citriuli, la belga, l'iceberg, fatta insalata sempre, come ti si chiama, altra verdura che c'è cruda, sì, però se è cotta di da verdura, no. Ma sai perché ti hai detto di prendere la verdura, di mangiare verdura? Perché quella lì ti riempie e non ti fa mangiare altra roba, capito? E il trucco, quello lì è il trucco per le diete, mangi molta verdura, la verdura lo fa ingrassare, però poi se mangi troppa verdura poi stai male di stomaco, anche ti viene diarrea se mangi troppa verdura. E infine minerale, è vero, ero quasi sempre a diarrea, sempre un manzano, non andava a brutto fazia, a caridare. Ma mi è passato e sto andando normale, sto andando. Forse perché ho mollato la verdura un po' e sto andando soltanto il mezzogiorno e basta. E appena la notte. E la verdura lo fa, via. Questo effetto qua, ma lo fa anche la metformina, non so se tu prendi pastiglie di metformina. sì, che la prendo, ed è quella. Attenzione, così. Ed è quella, infatti mi ha detto di segnarmelo. E adesso vede che me le cambia le pastiglie. Ne prendo due gialle e una bianca. Ne prendo. Gialle, cosa ha preso? Il Xigduo. Ah, le performina sono due pastiglie insieme, che è gialla, e poi quell'altra bianca. Anche io prendo due, ne prendo due, però la sera solo, ed è metformina e poi il Xigduo, che contiene anche quella metformina, però c'ha altre basi anche, capito? Questa c'ha la metformina e più un'altra cosa c'ha insieme, ed è gialla, un aramanzano e un aranutti, insieme a quella del colesterolo. Mi ha detto, ma quanto ne sta prendendo di questa del colesterolo? Una al giorno, la notte la sto prendendo. Insomma. Ah, perché ce l'ha troppo bassa, ce l'ha il colesterolo. A me che così l'ha giudito. Oh già. Ma Rovino si stava ascoltando facendo il letto, si decide la meglio, che discorsi. Ma tu ascolto, sì. Allora se tu hai tornato in ascolto che devo fare il letto. No, pensavo che avessi chiuso. Ma vabbè, sono cose naturali, stiamo parlando di cose naturali, non stiamo parlando di. Chi vuole ascoltare, ascolta, chi non vuole ascoltare lo spetta. Ma era gialla. Il cacca si può dire. No, è gialla la pastiglia, stavo dicendo. Cos'hai compreso tu? Ah, così era. KK. Vabbè. E comunque la metformina fa quel lavoro lì. Via, infatti è da 8,50 tutti e due. Quella bianca è 8,50 e quella gialla da 8,50. No, la mia è 1000, però io la prendo metà. Ne prendo 500. Da te. A me me ne ha segnato 8,50, mi ha segnato. E vabbè. Adesso mi ha detto, dice che guarda, secondo com'è, una pastiglia me la cambia. Fammi già un bagliccia bianca, fammi già un bagliccia gialla. E ha detto, se mi cambia quella gialla mi conviene di più. Perché? Perché quella gialla non la posso più vedere, che non riesce a ingudirla. E io prendo metformina, giù di metto 500. No, vuol dire che non ce l'hai come ce l'ho io, che ha bisogno di abbassarsi, che non mi sazza se la bileghi due paesi. Oh, Tore, ma tu fai anche sui? No, solo pastiglie prendo, solo pastiglie. Però mi hanno detto l'altro medico, l'altra volta che mi ha visitato il coso cardiaco, mi ha detto, dice, guardi che le pastiglie che sta prendendo sono normali, però non ce l'ha alta la glicemia. 147 non è alta, che mi ha controllato Ruvuglio. Mi ha detto 147 non è alta, è lui che ha alterato, il medico. È vero, è alta perché deve essere al massimo 120, anzi adesso mi pare che sia 90, che abbia abbassato. Il massimo deve essere a 120, le tabelle di prima. Per un diabetico non è alta, perché il diabetico solitamente può averla anche a 200, eccetera, eccetera, e oltrepassare 200, però è sempre alta perché la tabella massima arriva a 120. Boh, a me questo medico cardiaco mi ha detto che non è molto alta, si può andare con questa qua. Oh, Edo si è arrabbiato. E vabbè, alla prossima la vuol dire. Me la cambia, l'ha detto. Andiamo bene. E vabbè. Cappagatta. No, non si chiama medico cardiaco, si chiama cardiologo. Io so che si chiama così, però io ti ho detto in una maniera diversa. Alla stessa legge. Uia, mi sta bruciando l'occhio, cazzo, mamma mia. Deve essere che sono allergico al pulito. Dai, continuate che io vado a svuotare col minestrone, buttare il gabinetto, tirare un sciacquone, lavarlo e pulirlo e preparare per la contessa Monique de Long. E vai, prepara. Ti ascolto, dai, ciao. Ciao a tutti, ciao, avanti Tore. Sì, infatti è così. Aspetta che provo ad andare sul 23 a vedere se vedo Maria. Anche un vedo voi da Cari. Ma ormai non vira se è entrato Dallo. Però oggi non lo so se lui entra e si fa qualche chiacchierata. Non lo so. Ci sentiamo dopo se non c'è magari. Gianni. Non c'è, ho girato io. No, lo devo chiamare io, lo devo chiamare. Aiuto.